Respiro. Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti a Respiro, io sono Cristina Carpinelli. Oggi tocchiamo alcuni temi a noi cari e che nel corso di questo anno di Respiro abbiamo approfondito. Ad esempio, dopo il terremoto dell'Aquila si è tornato a parlare di piano casa, di costruzioni antisismiche. Si parla nel piano casa anche di bioedilizia e sgravi fiscali. Intanto però in Puglia un piano casa tutto interamente dedicato alla bioedilizia è già in vigore dal 2008, come spiega la nostra Paola Nania, Angela Barbanelli, assessore regionale all'assetto del territorio e del paesaggio. La Regione Puglia è molto impegnata nella promozione dell'edilizia sostenibile nella nostra regione. Abbiamo approvato una legge, norme per l'abitare sostenibile, la legge numero 13 del 2008, che è una legge sistemica, ossia guarda all'abitare sostenibile dalla fase di pianificazione dell'insediamento, privilegiando il recupero alla nuova costruzione, ma anche la demolizione e ricostruzione di immobili non sostenibili dal punto di vista ambientale, e il recupero anche di una serie di, possiamo dire, buone pratiche locali e non solo locali. Per esempio l'orientamento degli edifici in modo tale da renderli più efficienti dal punto di vista energetico, ma anche il recupero dell'acqua. La nostra tradizione costruttiva locale in una regione sitibonda era una tradizione che non consentiva che si perdesse una goccia d'acqua, no? Quindi anche le cisterne, i sistemi di grondaie che portavano l'acqua nelle cisterne, che veniva usata all'epoca anche, devo dire, come acqua potabile, che oggi invece potrebbe essere usata nell'ambito di una rete duale. Dunque avete capito bene, la Regione Puglia ha di fatto già un piano casa in vigore da tempo e che fissa delle regole e che dà anche degli incentivi, ma solo a chi la casa la rimette a posto o la ingrandisce usando bioedilizia. Regole e incentivi, anche incentivi volumetrici, oltre che incentivi di tipo finanziario, scomputo sugli oneri di urbanizzazione, ma anche incentivi volumetrici entro il limite del 10% rispetto alla volumetria prevista nell'ambito dei piani regolatori. Legge già in vigore? In vigore dal 2008. Quindi avete anticipato in qualche maniera il piano casa del governo? Sì, guardi, è un paradosso. Abbiamo anticipato nel senso che noi l'abbiamo elaborato in modo molto mirato, ecco, quindi forse mirato alla biosostenibilità. Assolutamente, più che di anticipazione si può parlare di una declinazione diversa dell'incentivo volumetrico per raggiungere degli obiettivi sociali. Quindi voi permettete di costruire un po' di più però utilizzando delle tecniche. Sì, sì. E quindi, perché io mi riferisco naturalmente alla versione del decreto che era indifferenziata per quanto attiene al 20% e che invece il 35% lo prevede solo in caso di demolizione e ricostruzione. Perciò parlo di una specifica declinazione, ossia per raggiungere degli obiettivi di sostenibilità che vanno dalla permeabilità dei suoli al risparmio dell'acqua, al risparmio energetico, alla ripiantumazione della città per evitare le isole di calore nella città, noi abbiamo immaginato appunto anche di usare il premio volumetrico, ponendoci anche abbastanza all'avanguardia rispetto ad altre regioni italiane. Quindi sostanzialmente il decreto di cui si parla, il piano casa, non verrà applicato in Puglia perché già esiste? Beh, il piano casa no, sarà applicato in Puglia. Noi faremo nei tempi previsti sicuramente una legge regionale condivisa con le varie componenti del partenariato istituzionale, in primis i comuni e socio-economico, e cercheremo di mirare ancora di più, perché appunto la misura del 20% per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti, noi vogliamo utilizzarlo per migliorare il paesaggio, perché